La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Ringrazio tutti quelli che hanno mandato le foto per il concorso Diventa anche tu un'opera di Picasso, con alcuni dei quali ci rivedremo la sera del 24 alla Mostra di Picasso a Milano, a Palazzo Reale, con Gianluca Nicoletti. Ringrazierò soltanto alcuni tra le foto, per la maggior parte molto spiritose, che sono arrivate. In particolare Pierangela Scarnato per il suo Donna in blu o Arlecchino pensoso, Leonore Lara per il bacio che, hanno ragione loro, è comico e ci ha fatto ridere, Poveri al mare di Valentina e Alessandro e poi L'ombra di Andrea Rossetti e un'altra ombra bellissima di Dragan Milošević. Ci vediamo il 24. Dopo gli scandali dell'amministrazione politica del Lazio, insorgono anche gli onesti. Io lo so che è molto più interessante quando si parla dei ladri che degli onesti, però c'è anche da dire che i ladri rubano e poi gli onesti la scontano, perché ci sono anche loro. Lo scrittore Antonio Pennacchi mi ha segnalato, e lo ringrazio, questa lettera che il sindaco di Cori, Tommaso Conti, ha scritto al direttore di Latina Oggi, perché il direttore del giornale aveva scritto una orazione contro i corrotti, una sacrosanta orazione contro i corrotti, però prendendoli tutti insieme, dicendo i politici e i politici del Lazio. E allora il sindaco di Cori ha scritto questa lettera. Sono cresciuto in casa con un nonno, contadino, che mi diceva che i soldi nella vita non hanno valore, che la cosa più importante sarebbero stati lo studio e la conoscenza. Quando sono stato eletto sindaco nel 2007, mio padre, bracciante contadino, che allora aveva 70 anni, mi ha preso da parte e mi ha detto: «Io ho lavorato una vita per voi, adesso vorrei riposarmi. La sera mi piace andare a giocare a carte al bar, non farmi sentire chiacchiere. Se ti dovessero servire soldi, lascia stare quelli del comune, che sono di tutti, rivolgiti a me. Per quanto possibile, ti aiuterò». Ci rimasi male. Beh, certo, perché praticamente stava parlando al figlio come a un possibile ladro. Forse non mi sarebbe servita questa ulteriore lezione, ma lui pensò bene di impartirmela, perché non si sa mai un figlio si faccia trascinare dalle tentazioni della vita. Al momento della mia lezione, l'indennità che mi sarebbe spettata per legge, circa 2.200 euro netti, me la sono ridotta autonomamente, portandola a 1.780 euro, di cui 270 vanno al Partito Democratico. Me ne restano 1.500. Dopodiché continua a dare conto della probità dei suoi conti e di come sia parca la sua vita. Quello che mi ha indignato e mi ha spinto a scriverle è questa necessità di gettare tutto in un tritacarne con i toni di un tramonto dove ogni gatto è grigio, tutti uguali, tutti coinvolti, persino tutti gli amministratori comunali lontani anni luce dal contesto in cui è accaduto lo scandalo. Lo so, il suo ragionamento di carattere generale, con poco spazio per le distinzioni, ma comunque mi sembra che lei non abbia interesse a farle, e questo mi pesa molto, perché nella mia vita ho sempre cercato di vestire l'abito dell'onestà, con piacere, e anche perché non ritengo giusta questa generalizzazione, perché conosco molti altri amministratori locali di destra e di sinistra che agiscono come me. E siccome lei cita Corrado Alvaro, io le dirò che i miei appresero la lezione dell'onestà nelle sezioni del PC di Cori negli anni 50 dalla voce di Giovanni Ricci, che insegnava ai contadini chi fosse Gramsci e l'importanza di far studiare i loro figli. Tommaso Conti. Ho letto uno stralcio di questa lettera e tra l'altro poi ho notato un carteggio di commenti tra amici. Pennacchi commenta: il sindaco Conti dice che scaduto il mandato di sindaco tornerà a casa e stop. Io penso che lo voterei volentieri invece alla regione o al Parlamento. E un altro amico di Latina, che è l'architetto Massimo Rosolini, commenta: il problema resta quello della progressiva mutazione antropologica che ha investito il personale politico italiano rendendolo infine il ceto più distante dalla politica di tutto il paese. La prova è che per governare decentemente è stato necessario commissariarlo. Ma poi la questione non è più di pulizia, ma di senno. Se un ministro non sa bene chi gli ha comprato la casa e un consigliere regionale passa il tempo a fare bonifici sul suo conto, fino a che lo scemo che ha tagliato le gomme al disabile, vuol dire che in Italia non c'è più una questione morale, ma c'è una grave questione intellettuale. Rubano anche perché non ce la fanno a pensare a nient'altro. Questi non sono solo delinquenti, sono soprattutto deficienti, ovvero mancanti di qualcosa. Io ricordo quando trovarono a casa di Poggiolini i lingotti d'oro nascosti nelle poltrone, nell'armadio, nel frigo, un amico disse: rubano perché sono ignoranti, non sanno come si gode. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Mi scrive una signora: ho 63 anni, fisicamente e di cuore e di mente una decina di meno. Ho conosciuto un uomo che anagraficamente ha 57 anni e che frequenta la mia casa per la sua professione. È un idraulico, si sta occupando dei lavori di casa, forse anche per qualche folletto strano che ci ha messo lo zampino. Negli intervalli del lavoro miei e suoi ci si scambiava qualche opinione e qualche informazione sul nostro modo di essere e di pensare, senza alcuna inibizione. E l'ho pure scoperto a guardarmi furtivamente le gambe. Un giorno se ne è uscito confidandomi che per il contratto di lavoro che ha fatto con me aveva discusso con la figlia, che gestisce la parte economica, e che in ogni caso mi avrebbe regalato un impianto diverso da quello concordato inizialmente. Poi mi diceva del suo desiderio di andare in un albergo di ghiaccio in Lapponia. Era una splendida idea, che sarebbe piaciuta anche a me. Ho visto i suoi occhi sorridere di gioia. E non è ancora finita. Ha aggiunto che voleva tornare ad essere un uomo e che non ero bellissima. Le mie amiche mi dicono quanto sei brutta. Io sono già innamorata di un uomo così, ma le chiedo, mi sto illudendo? È semplicemente una qualche sorta di tattica maschile? Lui è un bell'uomo e sicuramente è stato uno sciupa femmine con la sua duetto in gioventù e anche dopo. E le sue confidenze saranno l'atteggiamento di una persona fisicamente debole? Mi illumini. Edvige. Ma Edvige, lei si è illuminata da sola. Adesso non si oscuri però, diventando sospettosa. Quella che lei racconta è una storia antica, una storia gentile, coi tempi lenti di quando c'era il tempo. Un uomo e una donna, non giovani, si corteggiano delicatamente. Pieni di interrogativi, ma anche di visioni, l'albergo sul ghiaccio, la Lapponia. E lui, invece di offrirle dei fiori, le offre un lavoro sotto costo. Lei apprezza, ma rifiuta, e ognuno di questi gesti è un inchino del vostro minuetto, mentre intorno è tutto un vaffanculo. Ma non chieda a me come deve considerare le sue confidenze. È lei che le riceve e sa che quelle parole vogliono sempre dire un'altra cosa. Vogliono dire: ma quanto sto bene con te. Secondo me non deve sospettare, deve essere naturale come lo è lui quando dice: lei non è bellissima. Ecco, si capisce che lì sta già parlando della sua donna. Cioè, quella è la prova della sincerità. Io credo che qualsiasi cosa accadrà, sarà buona. Basta essere semplici e non rovinare questo che è il momento purissimo, quando ancora niente è stato detto e gli altri non lo sanno. E ancora non dovete sopportare il sarcasmo dei parenti, magari l'opposizione della figlia, che a sua volta sospetterà di lei: cosa vuole questa da mio padre? Non sottragga, se può, gioia alla gioia. Perché poi mica c'è solo il minuetto, ci sono anche altri balli. Siete un uomo e una donna soli in un appartamento come in Ultimo Tango a Parigi. Meno giovani, più cerimoniosi. E poi, fra le volgarità e i falsi progressi della modernità, c'è pure qualcosa di buono. Si è conquistata qualche piccola libertà reale. Per esempio, l'amore fra anziani non è più un tabù, anzi, a volte, fin troppo sponsorizzato. Mi ricordo quando ero piccola, un ingegnere di 65 anni, che era innamorato della maestra di piano, fin da quando era ragazzino. Era una della sua età. Però gli avevano fatto sposare una ragazza ricca. L'avevano fatto, insomma, lui aveva accettato il mercato. La maestra invece non si era mai sposata. Per 40 anni questi due si erano guardati da lontano. Adesso lui era rimasto vedovo e ricominciò, pur di vederla,

La tua non è la lettera di un nevrotico, anzi è molto lucida. Ma se continui così non so, perché tu stai soffocando il tuo fascino, che tra l'altro deve essere forte, deve essere pericoloso, visto l'accanimento dei compagni di scuola per levarti di mezzo come rivale. Tu non hai mai incontrato una persona che fosse una confidente di gusti, una con cui il sesso non fosse solo la penetrazione ma uno scambio di scoperte. Sugli uomini sono meno preparata, però quanto alle donne io ti posso dire, è vero che ci tengono, che molte sono imbevute del peggiore maschilismo, ma anche no, non ci sono solo le troglodite come la tua compagna di scuola, esistono delle persone piene di fantasia e tra l'altro esiste l'innamorarsi. In amore si passa sopra ben altro, e per amore intendo anche una forte attrazione fisica. E ci si passa sopra non nel senso che tolleri il difetto, Dio ce ne guardi, ma perché lo si trasforma. Lo si trasforma in qualcosa che fa parte di quel rapporto al quale stiamo dando una forma, in due. E sono infinite le maniere di far bene l'amore, se lo si vuole fare. Tu hai una doppia diversità, un sesso piccolo e una sensibilità grande. E tutte e due le cose sono per amatori, non sono per il collezionista grossolano. Come tutti gli uomini sensibili, non vai bene per la maggior parte delle donne, però per alcune sì. Ma sai quante si innamorerebbero di questo bel ragazzo corteggiatissimo che si nasconde per paura di essere offeso? Però, se non riesci più a sopportare, se non ce la fai ad affrontare il mondo così, io te lo dico irresponsabilmente perché non ho idea di come funzioni l'operazione e di cosa realmente si ottenga, però mi informerei. E se non è una fregatura da baraccone e si arriva a qualche risultato, forse prenderei in considerazione l'idea di un intervento. Io l'ho fatto in gioventù, non lo stesso. Mi sono corretta a un difetto che mi angustiava e poi non ci ho pensato più. Ti si libera la mente, ti si spalanca l'orizzonte, sai, con la musica, come nel finale di un film quando finisce bene. Buongiorno Barbara, ti ascolto da tempo, hai una voce coinvolgente. Pensare che quando ti vedevo in alcune trasmissioni mi eri antipatica. Adesso aspetto con impazienza la tua trasmissione. Grazie. Angelo Mascheretti. Oh, eccone un altro. Di lettere come queste, Angelo, io ne ho ricevute una carrettata da quando sono a Radio 24. E mi devo arrendere. Devo prendere atto che sono fisicamente repugnante. Così repugnante che se dico una cosa intelligente in TV sembra stupida. Grazie, Angelo Mascheretti. E forse nel tuo cognome c'è una preziosa indicazione. Mascheretti, forse mi dovrei mettere una maschera. E se non basta, come la ninfa Eco, dovrei diventare solo voce, perché l'aspetto non disturbi la comunicazione. Like a peppermint eaten away. Will I fight? Will I swagger or sway? Hee-hee, my lady, she cries like a baby. I genitori dei gay si dividono in due categorie principali: quelli che non gli danno pace e non si danno pace, e quelli invece che sono troppo complici. I peggiori sono quelli come i genitori di Tony, che gli fanno patire entrambi gli eccessi. Allora, Tony è figlio unico di genitori che non si amavano più. Era un bambino al quale nessuno parlava, né padre né madre, e neppure si parlavano fra loro. Tony venne su come il cane di due padroni, finché i suoi decisero di divorziare, perché non sopportavano più uno l'esistenza dell'altro. Erano proprio lì lì quando scoprirono che il figlio era gay. E finalmente trovarono una scusa inaspettata per rimanere insieme. Si separarono in casa, ma uniti da un'impresa santa, secondo loro, la crociata per recuperarlo, ovvero per farlo desistere dalla sua, per farlo essere un altro praticamente. Per la prima volta d'accordo, cominciarono a urlargli all'unisono: tu sei un diverso! E lui: ma quale diverso? Ma dove stanno gli uguali? Fra loro non litigavano più. Tutta l'aggressività che avevano tra loro due ormai la buttavano addosso a Tony. E in questo dissidio perenne avevano trovato il punto in comune. Cattolici praticanti, per loro tutto quello che usciva fuori nel sito dei Papa Boys era oro colato. C'era scritto lì che l'omosessualità è una malattia e va curata. E così cercarono di curare il figlio. E nell'impresa di farlo guarire furono coinvolti psichiatri, neurologi, preti. Scesero di gradino in gradino fino all'esorcista. Tony fu portato da un fratone, una specie di mistico lestofante che con l'imposizione delle mani faceva ogni sorta di miracoli. E allora loro pensavano che magari con l'imposizione delle mani di questo qua lui di colpo si sarebbe svegliato innamorato pazzo delle donne. E invece era il momento in cui hanno colmato la misura. Tony a quel punto decise di fuggire di casa. Ci prova, si fa la sua valigina, mette da parte i suoi risparmini, ma viene scoperto, non va lontano, non riesce neanche a prendere il treno alla stazione. I genitori lo racchiappano, oltretutto con entusiasmo, perché se ne va il loro trastullo, senza tormentare Tony, non sanno che fare della loro vita. Però loro non gli era mai venuta in mente l'idea che lo avevano seviziato. Anche perché adesso avevano ormai dalla loro anche la Chiesa, perché la Chiesa appunto ha fatto degli attacchi molto violenti e secondo me ingiustificabili alla libertà di scelta in campo anche erotico. Poi d'un tratto succede un miracolo laico. I genitori di Tony vedono in televisione una fiction che gli cambia la loro idea da un momento all'altro. Una fiction dove il rapporto omosessuale tra due ragazze e due ragazzi viene trattato come una cosa del tutto legittima e normale. E questa per loro è una folgorazione, perché la TV per loro conta più del Papa, più di tutto. E poi si accorgono che in fondo poteva persino andare di moda essere gay o essere lesbica. Allora, visto che non avevano potuto convertire Tony, si convertirono loro, però esagerando di colpo in senso opposto. A questo punto, invece che guardiani e gendarmi, cominciano a diventare complici, una complicità perniciosa. Cioè cominciano a impicciarsi della vita sessuale del figlio perché non hanno la propria. E il figlio, povero martire, è un bel ripetere, ma fatevi i fatti vostri se li avete. Il fatto è che loro i fatti loro non li avevano. E allora diventano melenzi come confessori, loschi come voyeur. Gli impongono un coinvolgimento repellente e non sospettano quanto lo annoiano e lo offendono. Cioè lui glielo dice, ma loro sordi. Dicono che sono tolleranti, già parola che presuppone l'intolleranza, ma comunque non sono neanche tolleranti, sono ruffiani. La madre si attacca a lui morbosamente, vuole che in qualche modo rimpiazzi il marito e poi parla sempre soltanto di lui e anche le amiche si allontanano, non la sopporta più nessuno. Parla dei suoi fidanzatini, delle sue predilezioni. Sono diventati un pericolo pubblico i genitori di Tony, per quanto sono noiosi. A questo punto Tony rimpiange il tempo in cui lo perseguitavano. C'era più dignità. Nella bottiglia per Barbara Alberti. Gentile Barbara, ho circa 38 anni. 15 anni fa circa ho conosciuto un ragazzo perdutamente innamorato di me, io anche, ma io ero fidanzata con un altro che mi ha sempre trattata malissimo, con il quale non riuscivo neanche più ad andare a letto. Un giorno gli dico che basta, che ho un altro e che con lui non volevo più stare. Lui, con mia grande sorpresa, diventa premuroso, innamoratissimo. Ma a me non interessava più. Allora vigliaccamente lui va a piangere da mia madre. E questa, mia madre, fa di tutto per farmi mollare l'altro. L'altro, quello di cui mi ero innamorata, durante tutto questo inferno si trova un'altra, si sposa e mette su famiglia. Finalmente riesco a lasciare il mio ragazzo. Lascio il lavoro e mi iscrivo all'università. Circa 5 anni fa, il bello e affascinante torna. Io, che nel frattempo ero riuscita a non pensarci più, una fatica enorme, gli apro la porta. E facciamo l'amore. L'intesa, soprattutto sessuale, è altissima. Ora non riesco a fare a meno di lui, ma non lui di me. Nel senso che lui non ha mai lasciato il suo contesto, anche se a detta sua non è contento di starci e dice, come tutti, di restare per i figli. Continuiamo a vederci sempre troppo poco. Facciamo sesso, chiamarlo amore è troppo. E dopo io mi sento uno straccio. Allora lo ricontatto, ci rivediamo, stiamo insieme e così questa diabolica cosa si perpetua. Io sono ancora innamorata di lui e quel fuoco a cui ho buttato sopra una montagna di cenere non si è spento, mai. Ogni volta che lo vedo, vedo quello che ho perso. E nonostante tutti i miei sforzi per uscire da questa situazione, mi sento un fallimento. Adesso, di nuovo, ho deciso di rimettermi d'impegno e cercare di non ricontattarlo più, mai più. Spero di avere la forza per farlo. Non trovo le parole per esprimere rabbia, delusione, frustrazione. Sono impaurita dal tempo, unico vero costo fisso della nostra vita, che inesorabilmente passa. Dimmi, per favore, cosa devo fare. Ho il cuore in pezzi. M. Hai detto bene. Spero di avere la forza per farlo. Perché il guaio è proprio lì. Il guaio è nella tua debolezza. Prima hai avuto la debolezza di farti costringere a lasciarlo quando lui ti amava. E poi quella di non riuscire a lasciarlo adesso che non ti ama più. Io credo che tu avresti bisogno di un taglio coraggioso con le trappole del passato. Mi sembra che tu viva come nella nebbia di un flashback che ti impedisce di stare nel presente. E poi, sai, io parlo per come io sento la vita. Ma cosa ne so io del piacere disperato che magari tu provi a stare con chi non ti ama, a rinnovare ogni volta l'umiliazione? Cosa ne so io di come stai tu veramente in questa grotta scomoda con sentimenti non più attuali? Ne soffri? Ma poi ti piace. Forse ci stai aggrappata per non impegnarti a scegliere e a lottare. Ho dovuto tagliare un pezzo della tua lettera che era un po' lunga, però ho appreso che vivi ancora con tua madre a 38 anni e ti sei iscritta all'università per la seconda volta nella speranza di trovare un lavoro. Ho paura che tu sia un po' in ritardo. Bisognerebbe prendere delle decisioni sulla propria vita finché c'è. Ho 28 anni, sposata con due figlie. Mio marito mi trova molto, forse troppo, eccitante. A lui piace molto il sesso, ne fa una ragione di vita, attribuendo la colpa al mio fisico. Lui pensa che se qualcuno mi guarda, poi mi desidera. E a me succede altrettanto. Mi tormenta tutte le notti per sapere se ho avuto qualche relazione. Vede film porno, aspettando che io gli riveli qualche episodio a me successo, ma non c'è niente da raccontare e lui, imbestialito, non mi crede. Vorrebbe avere un rapporto a tre con un altro uomo. Mi ha costretto a fare telefonate erotiche, ma io non sono portata per queste cose. Vorrei semplicemente stare bene con mio marito. Una volta ha invitato a casa un amico e mi ha chiesto di vestire in modo provocante, sperando che finissimo a letto tutti e tre. Meno male che alla fine non è successo. Non sono matura per affrontare il divorzio. Cara, tuo marito gioca da solo, ma non se ne accorge. E forse non se ne cura, perché se aveste gli stessi gusti sarebbe un matrimonio turbolento, ma perfetto. Però se è solo uno dei due che ha questa particolare morbosità, per farsi tuo marito si imbestialisce quando gli racconti che non è cornuto. Perché lui da te non vuole mica delle storie vere quando ti interroga ansiosamente. Vuole solo che tu accetti la sua fabulazione erotica, in cui gli amanti aumentano il desiderio immaginando l'intervento o la presenza di altri. Se tu questa cosa non la senti, deve essere una noia e una catastrofe stare vicino a uno che artificialmente conduce tutte le sue energie a un sesso convulso e abitato senza neppure badare se il suo strumento erotico, cioè te, sia accordato o disperato. Ma dimmi, ma quanto c'è in te di pigrizia e di mesto e rassegnato affetto per lui, se non ti senti, come dici, matura per una separazione? I vostri gusti sono clamorosamente opposti. E può darsi che tu un giorno magari diventerai una fanatica del sesso, ma con un altro che abbia saputo suscitare il tuo desiderio, perché invece tuo marito non c'è riuscito con questo suo metodo trito e monocorde e unilaterale. Uno che non cura il grado di disponibilità della donna non è mica un libertino, è solo un frettoloso e poco seducente maiale. Quali sono le motivazioni che spingono gli uomini ad andare con le mistress? Qual è la base di questa perversione? Non è secondo te la mancanza di affetto, o meglio, di nessuna considerazione da parte delle loro madri da bambini? Io da gran tempo in questi schemi non ci credo più. Credo che la fantasmagoria psicoanalitica sia un pregiudizio, un gioco che non abbiano più corso. L'Occidente ci si è divertito e flagellato per un secolo, condannandosi a un determinismo un po' bue. Credo che la natura umana sia più varia e non soffra etichette troppo rigide. Io non lo so perché degli uomini paghino fior di quattrini per farsi ficcare i chiodi, mettere maschere arroventate, farsi frustare con gli uncini, sfregiare, scuoiare, fare a fette. Registro solo che, vedi le 50 sfumature di grigio che vende a milioni, come hanno sempre venduto i romanzi rosa, solo che nei romanzi rosa oggi si scopa. Sia le 50 sfumature di grigio, dove è una donna ad essere torturata, o siano i clienti delle mistress, oggi il sesso eterosessuale si intende diffusamente solo come scambio di odio, umiliazione e tortura. Pare che donne e uomini siano pronti a tutto pur di non stare alla pari, o sotto o sopra. Io credo che fra ignoranza e masochismo, più che in qualsiasi altro tempo, siamo pronti per la dittatura, perché se trasferisci questa cosa dall'erotismo alla vita civile, il quadro è terribile. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Gloria Guerrera, la regista della Guardiana del Faro, è una ragazza molto orgogliosa e quindi non si arrabbia per cose da nulla. Ma quando è uscita per la prima volta nella Roma oscurata, adesso che ci hanno spento le luci, mi ha telefonato furibonda e anche smarrita e anche addolorata. Mi diceva: non si vede più niente. Diceva: di notte la città sparisce. Non si vede più la statua di Marco Aurelio a cavallo. Non si vede più il Palatino. Io camminavo e mi chiedevo: ma dove sono? E diceva: per me che ho 30 anni, mi sembra la metafora del vicolo cieco nel quale ci stanno spingendo. È così, c'è il buio. Così questi tecnici che ci governano, così autorevoli, hanno studiato tanto per fare poi la stessa politica di Superciuk, che rubava i poveri per dare ai ricchi. Ma lui almeno era un personaggio comico, era il personaggio di un fumetto. Invece questi signori coltissimi ci hanno spento la luce. Strano destino politico il nostro paese. Prima abbiamo avuto il carnevale sguaiato dei Berlusconi, le teste di maiale e poi il funerale, il nostro. E ce lo fanno assaporare con l'oscurità, così intanto ci abituiamo alla tomba. Allora, la politica è questa, ci tolgono anche i soldi che non abbiamo, ma non come farebbe anche il più modesto dei contabili per avanzarne un pochino per finanziare le emergenze, no, no. Proprio su quelle si accaniscono, scuole, disabili, malati che presto diventeranno morti perché tagliano i posti letto, tagliano le vite come le parche, risparmiano sulla polizia, sulle carceri, solo chiacchiere. E intanto un alone fatato continua a proteggere i grandi evasori e poi, per rialzarci il morale, ci spengono le città e ci lasciano al buio, come le anime dei morti. Con quest'ultimo provvedimento ci hanno condannati a un grande coprifuoco. Ma uno dice: va bene, oscuriamo le città, risparmiamo, ma avranno aumentato gli uomini della polizia. No, perché risparmiano sulla luce e sulla sicurezza, ovvero sulle nostre vite. Allora che gliene importa? Hanno le guardie del corpo che tirano fuori le pistole anche per una conferenza, vedi l'episodio del ministro Fornero. Quindi, visto che devono salvare l'Italia, prima ci affamano, così ci derubiamo gli uni con gli altri, e poi, come per favorirci in questa carriera che ci stanno aprendo, spengono le luci, così magari ci sarà più lieve darci allo scippo e all'aggressione. Credo che le armerie faranno dei grossi affari su questo. La luce era l'ultimo conforto democratico che spettava tutti. Andavi a spasso, senza un soldo in tasca, però te ne andavi per la città, per una città illuminata, visibile, e non invisibile come si lamenta Gloria Guerrera. E poi appaiono in televisione il ministro Barca e si burla di noi e dice con aria alata: ma come, non siete contenti? Noi vi stiamo facendo rivedere le stelle. Già si sentono dei demiurghi e degli dei, ma che sfacciato. Allora è proprio uno stile, è il calcio in faccia al pezzente abbattuto, come Monti, che ne abbiamo parlato, che sfotte il giornalista di Piazza Pulita. Io devo dire, la beffa è una delle cose più difficili da mandare giù. Ma perché ci devono pure ridere in faccia? Io sentivo il ministro Barca indignata, guardavo questo bel signore con la faccia abbiente, una corona di riccioli come un cherubino appena uscito dal parrucchiere, che si beava di questa retorica offensiva. Fremevo: ma come si permette di riecheggiare Pasolini invece delle lucciole, no? Le stelle. E come sempre, chi non può avere giustizia in terra, ricorrevo al soprannaturale e pensavo: ma se venisse il fantasma di Pasolini che gli dà una torturata? Invece ci ha soccorso un vivente e siamo stati vendicati. Oscar Giannino, che l'ha castigato come Zorro. Ta! Un balenare di spada, e gli ha fatto il segno della Z su quella faccia tosta e gli ha detto serenamente: è proprio così, ministro, ci state facendo vedere le stelle. E ha provocato una gran risata. Quanto gli ho voluto bene. Ma insomma, con questo buio, ma che vogliono da noi? Io credo che non ci possa essere innocenza in un provvedimento del genere, perché oltre che realisticamente dannoso e deprimente al massimo, è un gesto simbolicamente tremendo. Si spegne la luce ai bambini puniti per piegare la loro volontà, e credo che sia la stessa cosa. Ci oscurano perché ci vogliono spaventati, in loro balia, più ancora di adesso. Ci vogliono piegare del tutto, ma non perché sono cattivi. Sono solo gli emissari, gli esecutori di un nuovo potere che nemmeno George Orwell aveva mai immaginato, perché lui era antico, aveva in mente la dittatura sovietica. E adesso, se rileggi il libro, come appare umano rispetto a questa freddezza d'obitorio Big Brother, con la sua polizia feroce, i cani lupo, la tortura dei sorci, rispetto alla infinita tristezza di questo dio morto che è la finanza. E mi diceva Gloria: in questa maniera, camminando per la città, siamo privati della vista delle cose belle. Per questo potere non basta che diventiamo poveri, dobbiamo diventare poveri anche di spirito. Da Il giardino di Proserpina, di Swinburne. Qui, dove il mondo è quiete, qui, dove ogni affanno appare rissa di morti venti e di onde esauste in dubbiosi sogni di sogni, sono stanco di lacrime e di risa e di uomini che ridono e piangono, di quanto accadrà poi agli uomini che seminano per falciare. Sono stanco dei giorni e delle ore, gemme sbocciate di fiori infecondi, di desideri, di sogni e di poteri, di tutto, tranne che del sonno. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.